A parte quei giorni, di solito potevo leggere tranquillamente, ma l'interruzione e il commento che una volta fece Swan durante una sua visita alla lettura che stavo facendo di un autore del tutto nuovo per me, Bergotte, ebbero come conseguenza che per parecchio tempo non fu più su un muricciolo decorato di fiori viola a forma di conocchia, ma su uno sfondo completamente diverso, davanti al portale di una cattedrale gotica, che si stagliò da quel momento l'immagine di una delle donne che sognavo. Avevo sentito parlare di Bergotte la prima volta da un compagno più grande di me e per il quale nutrivo grande ammirazione, Bloch. Quando gli avevo confessato la mia ammirazione per la Nuit d'Octobre, era scoppiata in una risata stridula come uno squillo di tromba e m'aveva detto: «Diffida della tua predilezione alquanto volgare per Monsieur de Musset. È un individuo dei più nefasti e un figuro assai sinistro. Devo confessare del resto che sia lui che quell'altro di nome Racine hanno fatto ciascuno nella sua vita un verso abbastanza ben ritmato e che secondo me ha il merito supremo di non significare assolutamente nulla. Si tratta di La Blanche aux Lauçons e La Blanche Camire e di La Fille de Minos et de Pasiphae. Mi sono stati segnalati a discolpa di quei due malandrini da un articolo del mio amatissimo maestro, il vecchio Leconte, caro agli dei immortali. A proposito, ecco un libro che non ho tempo di leggere in questo momento, raccomandato a quanto pare da quel brav'uomo immenso. Mi si dice che ne consideri l'autore il signor Bergotte, un tipaccio dei più sottili, e benché a volte dia prova di mansuetudini alquanto inesplicabili, la sua parola è per me oracolo delfico. Leggi dunque queste liriche prose, e se il gigantesco assembratore di ritmi che ha scritto Bhagavat e Le Levrier de Magnus ha detto il vero, per Apollo tu gusterai, caro maestro, le nettare gioie dell'Olimpo». Era stato con tono sarcastico che Bloch m'aveva chiesto di chiamarlo caro maestro e che anche lui mi chiamava così, ma in realtà prendevamo un certo gusto a quel gioco, vicini come eravamo ancora all'età in cui si è convinti di creare ciò che si nomina. Sfortunatamente, conversando con Bloch e chiedendogli spiegazioni, non riuscii a placare il turbamento nel quale mi aveva gettato, dicendomi che quei bei versi, io che da loro non m'aspettavo niente meno che la rivelazione della verità, erano tanto più belli in quanto non significavano assolutamente nulla. Bloch, di fatto, non venne più invitato a casa nostra. All'inizio vi era stato ben accolto. È vero che mio nonno sosteneva che ogni volta che facevo amicizia con uno dei miei compagni, più che con gli altri, e lo portavo a casa, era sempre un ebreo, cosa che in linea di principio non gli sarebbe dispiaciuta. Anche il suo amico Swan era di origine ebraica, se non gli fosse parso però che di solito non sceglievo tra i migliori. Così, quando arrivavo con un nuovo amico, era raro che non si mettesse a canticchiare «O Dio dei nostri padri» dalla Juive, oppure «Israele spezza la tua catena», limitandosi naturalmente a cantare solo l'aria «Tilalam, talam, talim». Ma io temevo che il mio compagno la conoscesse e ne ricostruisse le parole. Prima ancora di averli visti, sentendo semplicemente il loro nome, che molto spesso non aveva niente di particolarmente israelita, indovinava non soltanto l'origine ebrea dei miei amici, che in effetti lo erano, ma anche quello che c'era a volte dispiacevole nelle loro famiglie. «E come si chiama quel tuo amico che viene stasera? Come si chiama?» «Le Mans, nonno». «Le Mans. Non c'è da fidarsi». E cantava «Archer, faites bon garde, veuillez s'entrer sans bruit». E dopo averci posto abilmente qualche domanda più precisa, esclamava «In guardia, in guardia!». Oppure, quando lo stesso paziente, già arrivato e costretto a sua insaputa, con un interrogatorio dissimulato, a confessare le proprie origini, allora, per farci capire che non aveva più alcun dubbio, si accontentava di guardarci, canticchiando impercettibilmente «Dos, Timid Israeli, qua, vugide isille pa, oppure Sham paternel hebron, dusfale, o ancora Oui, je suis de la race lui. Quelle piccole manie del nonno non implicavano alcun sentimento malevolo verso i miei compagni, ma Bloch non era piaciuto ai miei parenti per altre ragioni. Aveva cominciato con l'indisporre mio padre, che, vedendolo bagnato, gli aveva detto con interesse: «Ma, Bloch, che tempo fa dunque? È piovuto? Non ci capisco niente, il barometro segnava ottimo». Non ne aveva avuto che questa risposta: «Mi spiace, non posso assolutamente dirvi se è piovuto. Io vivo così decisamente al di fuori delle contingenze fisiche che i miei sensi non si prendono la pena di notificarmele». «Ma povero figlio mio, quel tuo amico è un idiota», mi aveva detto mio padre quando Bloch se ne fu andato. «Come? Non sa neanche dirmi che tempo fa? Ma se non c'è niente di più interessante, è un imbecille». Poi Bloch non era piaciuto alla nonna, perché dopo pranzo, mentre lei diceva di non sentirsi troppo bene, lui aveva soffocato un singhiozzo e si era asciugato qualche lacrima. «Come vuoi che sia sincero?» m'aveva detto la nonna. «Non mi conosce nemmeno. Ma allora è pazzo». E infine aveva scontentato tutti quanti perché, essendo arrivato a pranzo con un'ora e mezzo di ritardo e coperto di fango, invece di scusarsi, aveva detto: «Non mi lascio mai influenzare dalle perturbazioni atmosferiche né dalle divisioni convenzionali del tempo. Io ripristinerei volentieri l'uso della pipa da oppio e del crismalese, ma ignoro quegli strumenti infinitamente più perniciosi e tra l'altro piattamente borghesi come l'orologio e l'ombrello». Malgrado tutto, avrebbe fatto la sua ricomparsa a Combray, ma in ogni caso non era l'amico che i miei avrebbero desiderato per me. Avevano finito col convincersi che le lacrime che aveva versato per l'indisposizione della nonna non fossero finte, ma sapevano, per istinto o esperienza, che gli slanci della nostra sensibilità hanno scarso potere sul seguito delle nostre azioni e la nostra condotta di vita, e che il rispetto degli obblighi morali, la fedeltà agli amici, la realizzazione di un'opera, l'osservanza di un regime, hanno un fondamento più sicuro nelle cieche abitudini che non in quei trasporti momentanei, ardenti e sterili. A Bloch avrebbero preferito per me dei compagni che non mi dessero più di quanto è buona norma concedere agli amici secondo le regole della morale borghese, che non mi inviassero inopinatamente un cestino di frutta, perché quel giorno avevano pensato a me con tenerezza, ma che d'altronde, essendo incapaci di far pendere a mio favore la giusta bilancia dei doveri e delle esigenze dell'amicizia, con un semplice moto dell'immaginazione e della sensibilità, non la falsassero di più a mio danno. Persino i nostri torti distolgono difficilmente da quello che ci devono queste indoli di cui la mia prozia era il modello, lei che da anni in rotta con una nipote a cui non rivolgeva mai la parola, non modificò per questo il testamento col quale le lasciava tutto il suo patrimonio, perché era la sua parente più prossima e così si doveva fare. Ma io volevo bene a Bloch, i miei volevano farmi contento. I problemi insolubili che mi ponevo a proposito della bellezza, spoglia di significato della figlia di Minosse di Pasife, mi affaticavano e mi facevano star peggio di quanto avrebbero fatto nuove conversazioni con lui, benché mia madre le giudicasse perniciose. E lo si sarebbe ricevuto ancora a Combray se, dopo quella sera a cena, avendomi appena insegnato, cosa che poi ebbe una grande influenza sulla mia vita, rendendola dapprima più felice e poi più sventurata, che tutte le donne non pensano ad altro che all'amore e non ce n'è una di cui non si potesse vincere la resistenza, lui non mi avesse assicurato di aver sentito dire da fonte sicurissima che la mia prozia aveva avuto una giovinezza burrascosa ed era stata, tutti lo sapevano, una mantenuta. Non seppi trattenermi dal riferire quei discorsi ai miei, Quando si ripresentò, fu messo subito alla porta e quando in seguito lo avvicinai per la strada, mi trattò con estrema freddezza. Ma riguardo a Bergot, aveva detto il vero. I primi giorni, come un motivo musicale che ci farà impazzire, ma che ancora non riusciamo a distinguere, non mi fu chiaro quello che poi dovevo tanto amare nel suo stile. Non riuscivo a staccarmi dal suo romanzo che stavo leggendo, ma credevo che a interessarmi fosse solo il soggetto, come nei primi momenti dell'amore, quando si va ogni giorno a cercare una donna a qualche ricevimento, a qualche intrattenimento, dai cui piaceri ci si crede attratti. Poi notai le espressioni preziose, quasi arcaiche, che amavo usare in certi momenti, in cui un flusso segreto d'armonia, un preludio interiore, giungeva ad elevare il suo stile. Ed era proprio in quei momenti che si metteva a parlare del vano sogno della vita, del torrente inesauribile delle leggiadre apparenze, del tormento sterile e delizioso di comprendere e di amare, delle commoventi effigi che nobilitano senza fine la facciata venerabile e affascinante delle cattedrali, ed esprimeva tutta una filosofia per me nuova attraverso immagini meravigliose che si sarebbe detto fossero state proprio loro a risvegliare quel canto di arpe che si elevava in quel punto e al cui accompagnamento conferivano qualcosa di sublime. Uno di quei passi di Bergot, il terzo e il quarto che avevo isolato dal resto, mi diede una gioia incomparabile a quella che avevo trovato nel primo, una gioia che sentii di provare in una regione più profonda di me stesso, più unita, più vasta, da cui ogni ostacolo e ogni separazione sembravano essere stati aboliti. Riconoscendovi allora quel medesimo gusto per le espressioni preziose, quella stessa effusione musicale, quella stessa filosofia idealista che già altre volte, senza che me ne accorgessi, era stata la causa del mio piacere. Non ebbi più l'impressione di trovarmi in presenza di un brano particolare, di un certo libro di Bergot, che tracciasse sulla superficie del mio pensiero una figura puramente lineare, ma piuttosto dinanzi al brano ideale di Bergot, comune a tutti i suoi libri, e al quale tutti i passi analoghi che venivano a fondersi con quello avrebbero dato una sorta di spessore, di volume, da cui la mia mente sembrava ampliata. Non ero certo l'unico ammiratore di Bergot. Era anche lo scrittore preferito di un'amica di mia madre molto colta. Infine, per leggere il suo ultimo libro appena pubblicato, il dottor di Bourbon arrivava a lasciare i suoi pazienti in attesa. E fu proprio dal suo ambulatorio e da un parco vicino a Combray che si levarono in volo alcuni dei primi semi di quella predilezione per Bergot, specie così rara allora, oggi universalmente diffusa, il cui fiore ideale e comune si trova dappertutto in Europa, in America, fin nel più piccolo villaggio. Ciò che l'amica di mia madre, sembra il dottor de Bourbon, amavano in special modo nei libri di Bergot, come me del resto, era quel medesimo flusso melodico, quelle espressioni, alcune antiche, altre molto semplici e note, ma disposte e messe in luce in modo che sembrava rivelare in lui un gusto affatto particolare. E infine, nei passi tristi, una certa rudezza, un accento quasi rauco. E senza dubbio, anche lui doveva sentire che quelli erano i suoi maggiori incantesimi. Infatti, nei libri che seguirono, ogni volta che si imbatteva in qualche grande verità o nel nome di una famosa cattedrale, interrompeva il racconto e in un'invocazione, in un'apostrofe, in una lunga preghiera, dava libero corso a quegli effluvi che nelle prime opere restavano interni alla sua prosa, rivelati allora soltanto dalle ondulazioni della superficie, forse ancora più dolci, più armoniosi, quando erano così velati e tali da non poter dire in maniera precisa dove nascesse, dove spirasse il loro murmure. Quei brani di cui si compiaceva erano i nostri brani preferiti. Personalmente li sapevo a memoria. Ero deluso quando riprendeva il filo del racconto. Ogni volta che parlava di qualcosa la cui bellezza mi era rimasta fino ad allora nascosta, di foreste di pini, della grandine, di Notre Dame de Paris, di Athalie o di Phèdre, in un'immagine faceva esplodere quella bellezza fino a me. Così, sentendo quante parti dell'universo la mia debole percezione non avrebbe colto. Se lui non me le avesse avvicinate, avrei voluto possedere una sua opinione, una sua metafora su ogni cosa, soprattutto su quelle che avrei avuto occasione di vedere io stesso, e tra queste in particolare sugli antichi monumenti francesi e su certi paesaggi marini, perché l'insistenza con cui li citava nei suoi libri provava che li riteneva ricchi di significato e di bellezza. Sfortunatamente, su quasi tutto, ignoravo la sua opinione. Non dubitavo che fosse completamente diversa dalle mie, poiché proveniva da un mondo sconosciuto verso il quale cercavo di innalzarmi. Persuaso che i miei pensieri sarebbero sembrati una pura inezia a quello spirito perfetto, ne avevo fatto tabula rasa a tal punto che quando per caso mi capitava di incontrarne in qualche suo libro uno che avevo avuto anch'io, il mio cuore si gonfiava come se un Dio nella sua bontà me l'avesse restituito e l'avesse dichiarato legittimo e bello. Capitava a volte che una sua pagina dicesse le stesse cose che io scrivevo spesso di notte alla nonna e alla mamma quando non riuscivo a dormire, tanto che quella pagina di Bergotte aveva l'aria di una raccolta di epigrafi da mettere in testa alle mie lettere. Anche più tardi, quando cominciai a comporre un libro, di alcune frasi la cui qualità non bastò perché mi decidessi a continuarlo, ritrovai l'equivalente in Bergotte. Ma era solo quando le leggevo nella sua opera che potevo gioirne. Quando ero io a comporle, preoccupato che rispecchiassero esattamente quello che percepivo nel mio pensiero, temendo di non coglierne la somiglianza, non avevo certo il tempo di chiedermi se ciò che scrivevo fosse piacevole. Ma in realtà c'era solo quel genere di frasi, quel genere di idee che io amavo veramente. I miei sforzi inquieti e insoddisfatti erano essi stessi un segno d'amore, amore senza piacere ma profondo. Così quando all'improvviso trovavo frasi simili nell'opera di un altro, vale a dire senza più avere scrupoli o severità, senza dovermi tormentare, mi lasciavo finalmente andare con delizia al gusto che mi procuravano, come un cuoco che per una volta che non deve cucinare trova finalmente il tempo per essere goloso. Un giorno, avendo trovato in un libro di Bergotte, a proposito di una vecchia domestica, una battuta che il magnifico e solenne linguaggio dello scrittore rendeva ancor più ironica, ma era la stessa che io avevo spesso ripetuto alla nonna parlando di Françoise, un'altra volta in cui vedi che lui non giudicava indegna di figurare in uno di quegli specchi della verità che erano le sue opere, un'osservazione analoga a quella che avevo avuto occasione di fare a proposito del nostro amico Le Grandin. Osservazioni su Françoise Le Grandin erano certamente fra quelle che avrei con la massima determinazione sacrificato a Bergotte, persuaso che le avrebbe trovate prive di interesse. Mi parve all'improvviso che la mia umile vita e i reami del vero non fossero così separati come avevo creduto, che addirittura coincidessero in alcuni punti, e piansi di fiducia e di gioia sulle pagine dello scrittore, come fra le braccia di un padre ritrovato. Dai suoi libri immaginavo Bergotte come un vecchio debole e deluso che avesse perduto dei figli e non se ne fosse mai consolato. Così leggevo, cantavo dentro di me la sua prosa più dolce, più lento, forse, di come era stata scritta, e anche la più semplice delle frasi giungeva a me con una intonazione commossa. Più di tutto amavo la sua filosofia, alla quale m'ero consacrato per sempre. Mi rendeva impaziente di arrivare all'età in cui sarei entrato al ginnasio, nella classe detta di filosofia. Ma avrei voluto non vi si facesse altro che vivere unicamente del pensiero di Bergotte. E se mi avessero detto che i metafisici, ai quali allora mi sarei appassionato, non gli avrebbero somigliato in nulla, avrei provato la disperazione di un innamorato che vuole amare una donna per sempre e a cui parlano delle altre amanti che avrà in futuro. Una domenica, durante la mia lettura in giardino, fu interrotto da Swann, che veniva in visita dai miei. «Che cosa leggete, se può vedere?» «Ah, ma guarda, Bergotte! Chi vi ha indicato le sue opere?» Gli dissi che era stato Bloch. Ah, sì, quel ragazzo che ho visto qui una volta. Somiglia molto a Maometto II nel ritratto di Bellini. È impressionante, ha le stesse sopracciglia circonflesse, lo stesso naso ricurvo, gli stessi zigomi sporgenti. Quando avrà una barbetta, sarà la stessa persona. In ogni caso ha gusto, perché Bergot è un ingegno affascinante. E vedendo quanto mostrasse di ammirare Bergot, Swann, che non parlava mai delle persone che conosceva, fece per bontà un'eccezione e mi disse: «Lo conosco molto bene, se vi fa piacere avere una sua dedica sul libro, glielo posso chiedere». Non osai accettare, ma gli feci qualche domanda su Bergot. «Sapreste dirmi qual è il suo attore preferito?» «L'attore? Non saprei, ma so che per lui nessun artista è pari alla Bergman, che considera al di sopra di tutti. L'avete mai sentita?» «No, i miei non mi permettono di andare a teatro». «Ah, un peccato. Doveste chiederglielo. La Bergman è in Fedro e nel Sid. È solo un'attrice, se vogliamo. Ma, vedete, io non credo molto alla gerarchia delle arti». E notai, siccome la cosa mi aveva spesso colpito nelle sue conversazioni con le sorelle della nonna, che, quando parlava di cose serie, quando usava un'espressione che pareva implicare un'opinione su un argomento importante, Swann aveva cura di isolarla con un'intonazione speciale, meccanica e ironica, come se l'avesse messa fra virgolette, dando l'impressione di non volersene far carico e di dire: «La gerarchia, sapete, come dicono le persone ridicole». Ma allora, se era ridicolo, perché diceva la gerarchia? Un istante dopo aggiunse: «La Bergman vi darà una visione altrettanto nobile di un qualsiasi altro capolavoro, che ne so», e si mise a ridere, «Le Reine de Chartres». Fino a quel momento, l'orrore di esprimere seriamente la sua opinione mi era sembrato qualcosa che doveva essere elegante e parigino e che si opponeva al dogmatismo provinciale delle sorelle della nonna. E supponevo addirittura che fosse un vezzo intellettuale tipico del suo ambiente sociale e dove, per reazione all'irismo delle generazioni precedenti, venivano riabilitati all'eccesso i piccoli fatti particolari, un tempo ritenuti volgari, e proscritte le frasi. Ma ora trovavo un che di urtante in quell'atteggiamento di Swann di fronte alle cose, come se non osasse avere un'opinione propria e si sentisse tranquillo solo quando poteva fornire meticolosi e precisi ragguagli. Ma non si rendeva conto che questo significava professare l'opinione, postulare che l'esattezza di quei dettagli era importante? Ripensai allora a quella cena in cui ero così triste perché la mamma non sarebbe salita nella mia stanza e lui aveva detto che i balli dalla principessa de Leon non avevano alcuna importanza, però dedicava la sua vita a quel genere di piaceri. Trovavo tutto questo contraddittorio. Per quale altra vita si riservava di dire finalmente con serietà quello che pensava delle cose? Di formulare giudizi da non dover mettere tra virgolette, di non più dedicarsi con puntigliosa cortesia a occupazioni che giudicava al tempo stesso ridicole. Notai anche nel modo con cui Swann mi parlò di Bergot, qualcosa che in compenso non era tipico di lui, ma al contrario era comune allora a tutti gli ammiratori dello scrittore, all'amica di mia madre, al dottor de Bulbon. Anche loro, come Swann, dicevano di Bergot: «È un ingegno affascinante, così singolare, ha un modo tutto suo di dire le cose, un po' ricercato ma talmente gradevole. Non c'è bisogno di vedere la firma, si capisce subito che è opera sua». Ma nessuno sarebbe arrivato a dire: «È un grande scrittore, ha un grande talento». Non dicevano nemmeno che aveva del talento, non lo dicevano perché non lo sapevano. Noi siamo molto lenti a riconoscere nella particolare fisionomia di un nuovo scrittore il modello che nel nostro museo delle idee generali porta il nome di grande talento. Proprio perché si tratta di una nuova fisionomia, non la troviamo del tutto somigliante a quello che chiamiamo talento. Parliamo piuttosto di originalità, fascino, delicatezza, forza. E poi un giorno ci accorgiamo che tutto questo è appunto il talento. «C'è qualche libro di Bergotte in cui abbia parlato della Burma?» chiesi a Swan. «Credo in un breve saggio su Racine, ma deve essere esaurito. Forse è stato ristampato, mi informerò. Posso tra l'altro chiedere a Bergotte tutto quello che volete. Non c'è settimana che non venga da noi a cena, è un grande amico di mia figlia. Vanno insieme a visitare le città antiche, le cattedrali, i castelli». Siccome non avevo alcuna nozione della gerarchia sociale, il fatto che da molto tempo mio padre ritenesse impossibile che noi frequentassimo Madame e Mademoiselle Swann aveva avuto come effetto di accrescere ai miei occhi il loro prestigio, facendomi immaginare grandi distanze fra loro e noi. Mi dispiaceva che la mamma non si tingesse i capelli e non mettesse il rossetto sulle labbra come faceva Madame Swann, per piacere, come avevo sentito dire dalla nostra vicina, Madame Sazerat, non a suo marito, ma a Monsieur de Charlus. E pensavo che dovevamo essere per lei oggetto di disprezzo, cosa che mi addolorava soprattutto a causa di Mademoiselle Swann, che mi avevano detto era una ragazzina così graziosa e di cui fantasticavo spesso, prestandole ogni volta uno stesso viso arbitrario e incantevole. Ma quando quel giorno venni a sapere che Mademoiselle Swann era un essere di una condizione così rara, immersa in mezzo a tanti privilegi come nel suo elemento naturale, che quando chiedeva ai suoi genitori se c'era qualcuno a cena, le veniva risposto con quelle sillabe colme di luce, con il nome di quel convitato d'oro che per lei era solo un vecchio amico di famiglia, Bergotte, e che per lei la conversazione intima a tavola, quello che per me corrispondeva alle chiacchiere della prozia, era fatto delle parole di Bergotte su tutti quegli argomenti che non aveva potuto affrontare nei suoi libri e sui quali avrei voluto ascoltarlo proferire i suoi oracoli, e che infine, quando andava a visitare una città, lui camminava al suo fianco, sconosciuto e glorioso come gli dèi che scendono tra i mortali. Compresi allora, oltre al pregio inestimabile di un essere come Mademoiselle Swann, quanto le sarei parso grossolano e ignorante, e provai così intensamente la dolcezza e l'impossibilità di essere suo amico, che fui al tempo stesso pieno di desiderio e di disperazione. Il più delle volte ora, quando pensavo a lei, la vedevo davanti al portale di una cattedrale nell'atto di spiegarmi il significato delle statue, e con un sorriso di benevola simpatia di presentarmi come suo amico a Bergotte. E il fascino di tutte le idee che le cattedrali facevano nascere sempre in me, il fascino delle coste dell'Île-de-France e delle pianure della Normandia, si riverberava sull'immagine che mi formavo di Mademoiselle Swann. Questo voleva dire essere pronto ad amarla. Di tutte le cose che l'amore esige per nascere, quella a cui tiene di più e che gli fa trascurare tutto il resto è la nostra convinzione di un essere che partecipi a una vita sconosciuta in cui il suo amore ci farà penetrare. Anche le donne che pretendono di giudicare un uomo solo dal suo fisico vedono in quel fisico l'emanazione di una vita speciale. È per questo che si innamorano dei militari, dei pompieri. L'uniforme le rende meno esigenti riguardo al viso. Credono di baciare sotto la corazza un cuore diverso, avventuroso e dolce, e un giovane sovrano, un principe ereditario, per fare le più lusinghiere conquiste nei paesi stranieri che visita, non ha bisogno del profilo regolare che forse sarebbe indispensabile a un agente di borsa.